Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno. Il programma prevede di parlare di Buttiglioni, di sondaggi, di supporti per mutande, di determinismo e di probabilismo, nonché del prossimo tuo, che ovviamente è da amarsi.